Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Oggi parleremo di un argomento che recentemente è diciamo un po' su tutti i giornali, se ne parla in televisione, soprattutto dopo la giornata dei grandi temi discussi a Milano, appunto in vista dell'Expo. Un tema però che non riguarda solo l'Expo, un tema che riguarda noi tutti i giorni, in ogni momento, perché parleremo di cibo sprecato, ma anche come far fronte, quindi non arrivare alla pattumiera, quindi non sprecare il cibo prima che diventi rifiuti. Io credo che questo sia il problema più importante. Bene, ne parleremo con Andrea Segre, che è diciamo un veterano di questo argomento, quello che il personaggio che in Italia prima di tutti ha sollevato questo problema fondando Last Minute Market, e poi è anche presidente di un mercato ortofrutticolo dove immagino che c'è tanto spreco o tanto rifiuto. Poi quello lo vedremo, Andrea. Nonché è uno dei collaboratori della messa a punto della Carta di Milano, che quindi in questi giorni è stata molto pubblicizzata appunto dopo gli incontri all'Expo. Io ricordo numero verde 800 24 0024 349 238 6666. Poi abbiamo in studio con noi anche Lisa Casali, esperta di recupero del cibo. Buongiorno Lisa. Ciao, buongiorno. Magari ci darà sicuramente dei consigli importanti. Però io voglio cominciare con Andrea Segre, e chiedigli, Andrea Segre, lo spreco è tanto, questo ormai si sa perché le cifre sono veramente enormi, contestate, non contestate, però il problema identificare quant'è lo spreco, secondo me, è importante, però quello che è importante è far non arrivare quel cibo che sia tramutato in spreco. Sì, infatti i dati poi a livello mondiale, a livello europeo, a livello italiano sono abbastanza inquietanti, ma al di là dei numeri, delle percentuali, probabilmente possiamo dire che nelle economie sviluppate o ricche, una volta ricche, lo spreco sta a casa nostra, lo spreco domestico. Però il tema vero non è tanto e soltanto recuperare, anche perché questa sorta di dicotomia, ci sono 1 miliardo di affamati, un po' meno secondo la FAO, più di 1 miliardo di obesi, è un po' come si diceva una volta, mangia, finisci tutto quello che è nel piatto perché muore qualcuno, qualche bimbo di fame in Africa. Ecco, non è che ci sia una correlazione. Infatti la parola d'ordine, la parola chiave è prevenire. Nella strategia dei rifiuti europei, prima che il cibo ancora buono, questo lo spreco, diventi rifiuto, bisogna fare qualcosa. Allora, la cosa che io ho imparato in tanti anni di analisi del bidone della spazzatura, che vogliamo il più vuoto possibile, è che se sprechiamo il cibo, a prescindere da quant'è questo spreco, vuol dire che non gli diamo più valore, il cibo non vale più niente, ed è questo il vero problema, ed Expo forse deve arrivare lì, ridare, faremo una buffata probabilmente, difficile da digerire, a proposito, tanto parleremo di cibo, però arrivare a dare questo valore, perché il cibo non solo ha valore di per sé, ma contiene anche tanti valori economici, sociali, relazionali e così via. Mi sembra che il valore al cibo lo abbia ben annunciato, ben così spiegato Papa Francesco, ma non solo. Volevo arrivare anche a questa diciamo iniziativa, se vogliamo, del ministro delle politiche agricole Martina, di mettere in costituzione appunto che ogni cittadino ha diritto al cibo. Mi sembra una bellissima cosa, però mi sembra un po', come posso dire, come fare? Questo è il punto, dare il diritto ad ogni cittadino al cibo. Beh, intanto sarebbe davvero molto forte se la Carta di Milano, ecco, io faccio parte di questo tavolo di lavoro ristretto che la scriverà sotto la guida di Salvatore Veica, la presidenza del ministro delle politiche agricole, e anche del tavolo tavolino, diciamo, vietato sprecare, uno dei 42 tavoli che è stato presentato sabato scorso a Milano. Se questa carta partisse con uno statement, come si dice, visto che sarà internazionale ovviamente, molto forte, il diritto al cibo deve essere non solo nella Costituzione dei paesi, ma anche garantito. Adesso io capisco che sembra un qualcosa di ecco, però è un punto di partenza fondamentale, non è mai stato scritto, non è mai stato fatto. È chiaro che se questo sarà l'ascito di Expo, finirà Expo prima o poi, il 31 ottobre avremo finito, ecco, allora poi si tratterà di mettere in pratica un qualcosa che va a soddisfare un bisogno, il cibo. non è un desiderio, è per questo che deve essere garantito, ma ci sono tutte le condizioni in realtà per poterlo fare, perché il cibo è abbondante nel mondo, è una questione di ridistribuzione che non funziona, perché c'è qualcuno che ruba la terra agli agricoltori, a me non piace il termine contadino, per produrre dell'energia, e tutto questo in una, si chiama governance mondiale, che potrebbe essere il lascito vero di Expo, potrebbe portare a qualcosa che tutti si aspettano, almeno dal riconoscimento della Carta dei diritti umani. Senta, Segre, mi viene a questo punto, forse anche molti ascoltatori potrebbero intervenire e chiedere, ma conteremo qualcosa a livello mondiale con questa Carta di Milano? Intanto, non lo so, è un dubbio che a tutti viene, verrà a molti, però intanto segna il passaggio, credo, dai contenitori, abbiamo parlato fino adesso di padiglioni in tutti i sensi, ai contenuti, perché il tema è straordinario. Nutrire il pianeta, energia per la vita, qualcuno l'ha criticato, però riporta al centro del mondo per 6 mesi il cibo, l'avevamo perso di vista in qualche modo. Se poi questa carta servirà, mi pare la prima volta che comunque si provi a costruire un documento da condividere, perché potranno sottoscriverla i cittadini, le imprese, le istituzioni, i corpi cosiddetti intermedi, cioè le associazioni. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo a parlare di spreco, ma come rimediare allo spreco? Sentiamo un radioascoltatore, Rosario da Roma. Buongiorno Rosario. Buongiorno ascoltatori. Prego. Mi sente? Sì. Io sono d'accordo di inserire lo spreco all'interno della Costituzione, però avendo una esperienza diretta con una Caritas parrocchiale, volevo far presente che la Comunità Europea ha nel tempo, quindi le parlo degli ultimi 8-9 mesi, ha ridotto drasticamente l'invio di materiale alimentare alle Caritas parrocchiali, diocesane per prima, parrocchiali dopo. Quindi va bene lo spreco, fronteggiare lo spreco, ma il problema più grande è tenere un occhio anche sulle problematiche delle famiglie che non riescono a far fronte alle esigenze alimentari proprie e del resto della famiglia. Quindi prego. Va bene dare qualcosa di concreto alla popolazione affinché riduca lo spreco, però dall'altra parte facciamo sì che anche le persone che hanno bisogno gli sia dato il necessario. Andrea, quindi, se vuoi sì, rispondere. No, ma è corretto quello che dice Rosario. Ecco, c'è il tema che abbiamo affrontato della prevenzione, dobbiamo arrivare prima del rifiuto che peraltro inquina, dobbiamo pagare lo smaltimento e recuperare fino all'ultima briciola ciò che è disponibile, e l'Unione Europea effettivamente negli ultimi anni ha deciso di ridurre gli aiuti, tutti ricordano le eccedenze comunitarie, questi sprechi, ecco, si possono recuperare e dare a chi ha bisogno, bisogna continuare su quella strada, ma è importante anche riconoscere che la prevenzione è il nostro futuro, in modo che poi non venga fuori, spreca pure, tanto c'è qualcuno che recupera e dà a chi ha bisogno. Non metterai mai a posto il sistema, naturalmente, così. Bene, ricordo 800 24 00 24, sms 7491 238 6666. Leggiamo un sms che mi dice: buongiorno, grazie per lo spreco. A casa mia inizia dalla scarsa conoscenza dei metodi di conservazione dei cibi. Si getti il prosciutto dopo 2 giorni di frigo e poi rispettiamo la data di scadenza come fosse il timer di una bomba. Ma voglio passare appunto la parola a Lisa Casali su questo secondo intervento, anche perché so che c'è un'iniziativa molto particolare in corso, appunto delle donne di casa? No, è un'iniziativa associata ad Expo e si chiama Women for Expo, di cui sono ambassador, e siamo, diciamo, tante donne, ognuna che ha una propria, insomma, competenza, una propria eccellenza, e insieme faremo un sacco di iniziative, sicuramente corali, così come corale io mi aspetto il messaggio di Expo non ha una mission che è educare, didattica, ci sono anche queste cose, ma ricordiamoci che avremo, insomma, più di 20 milioni di consumatori che ogni giorno entreranno e che in qualche modo abbiamo la possibilità di rieducare, di condizionare e indubbiamente anche riportare, se riusciamo, qualcosa come riportare il cibo al centro, farci reinnamorare del cibo. E come appunto parlando di conservazione, di spreco domestico, indubbiamente il modo in cui conserviamo il cibo è fondamentale. Un esempio è il fatto che, così come teniamo i medicinali in bagno, che è il posto più sbagliato perché è umido e caldo, allo stesso modo spesso teniamo tanti cibi in cucina, vicino alle pentole in ebollizione, e questo non fa altro che accorciarne la vita. Credo che sia proprio una questione di approccio, il modo in cui noi vediamo gli alimenti, e mi piacerebbe proprio, così come per me da giorno dopo giorno è stato un po' un reinnamorarsi di ogni singola foglia, ogni singolo baccello. Credo che sia questa un po' la chiave per far sì che le persone cambino approccio rispetto al cibo. E anche ogni singolo scarto o sottoprodotto, che era ad esempio i nostri nonni sapevano benissimo come utilizzare, adesso l'abbiamo un po' perso. Quindi quel prosciutto che viene buttato via dopo pochi giorni solo perché è un po' grigio, mentre magari può diventare la mousse come si fa in Emilia, piuttosto che un'acqua di cottura di un legume che prontamente non vediamo l'ora di buttare via e che invece praticamente è già un brodo, è già la cena di casa, basta aggiungerci qualche verdura, o come il grasso che si forma sul brodo quando lo facciamo raffreddare, che è perfetto per cuocere perché ha un ottimo punto di fumo. Ma Andrea, io volevo chiederti questo: tu so che hai fatto una ricerca appunto sul discorso di prevenzione, cioè mangiare in un certo modo si può anche risparmiare, ecco, ci vuoi parlare di questo? Sì, prevenzione fa rima con educazione, educare la radice è tirare fuori, ecco, tirare fuori il meglio del cibo e metterne dentro lo stomaco quello buono. Abbiamo fatto una tesi di laurea dietistica, corso di laurea facoltà di medicina a Bologna, carrello della spesa, abbiamo fatto quanto costa mangiare attualmente per gli italiani una settimana un consumatore che va in un supermercato, quindi uno di noi, sette giorni, tre pasti al giorno, due spuntini, 48 euro, è la dieta più lontana da quella mediterranea di cui noi ci vantiamo, patrimonio dell'UNESCO, il rapporto è 1 a 5, siamo il paese del Mediterraneo più lontano da quella dieta, con tutte le conseguenze patologie. Poi abbiamo preso la piramide, avete presente la piramide della dieta mediterranea, dove la base ha i cereali e poi arrivi ai dolci, alla carne, che fra l'altro è quella che ha un impatto ambientale minore, e c'è anche questa questione da tenere conto. Stesso consumatore che va nello stesso luogo, lo stesso carrello, solo che lo spinge lui, probabilmente invece di farselo spingere da qualcos'altro, dalla pubblicità, costa 50 euro, 2 euro di differenza. Io sono rimasto stupefatto, ho chiesto alla tesista, ma rifammi il calcolo, non è possibile. Vuol dire che mangiare bene, sapendo cosa mangiare, come combinare i prodotti, come sceglierle, non costa tanto di più. Poi questa ragazza, ormai già dietista perché si è laureata, ha fatto anche il calcolo del carrello fast food, non vi dico la catena, è un consumo extra domestico, stesso consumatore, 7 giorni e 3 pasti, prendendo dalla lista del menù 153 euro, perché uno pensa che al fast food mangi low cost, non è proprio così. Quindi l'educazione è quello che conta, dobbiamo imparare o reimparare, perché in fondo ricordiamoci, le nostre mamme e nonne ci dicevano, ed ero, mangia, finisci tutto quello che c'è nel piatto perché poi nel Biafra muoiono di fame, ma facevano economia domestica. Ecco, la vogliamo modernizzare e fare inserire nella scuola per davvero l'economia, anzi meglio l'educazione alimentare? Ecco il discorso dell'educazione, quindi il problema è, mi sembra che sia anche un altro, sia stato un altro, se ben ricordo, in questo paese di una mio primo intervista con te anni fa, che il problema era anche dal punto di vista, se vogliamo, legale, cioè del recupero di prodotti in via di scadenza dei supermercati. Ecco, ricordo che c'erano delle difficoltà allora di poter recuperare, perché diciamo la verità, ci sono tantissimi prodotti che a 2 giorni di scadenza i supermercati devono ritirare appunto dagli scaffali. Questo quindi diventa rifiuto, viene scartato. Che fine fa tutto questo popò di roba che appunto viene mandato? Anche quella dei ristoranti alla sera, per esempio. Tutto finisce, diciamo, nel bidone della spazzatura, se va bene finisce nell'umido, per dire, ma se poi non fai la raccolta differenziata è un rifiuto che deve essere smaltito, peraltro ci paghiamo poi un sacco di denaro Quindi abbiamo un conto economico molto elevato, ma è anche spreco di natura, perché quando produci in realtà usi la terra, il suolo, l'acqua, l'energia. Beh, il problema l'abbiamo risolto tanti anni fa lavorando con le ASL, che peraltro ci garantiscono la sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti, e sui cosiddetti manuali di autocontrollo. E certo è, come dicevi tu prima, o un ascoltatore, non ricordo, interpretiamo questa scadenza come se fosse una bomba, un timer, in effetti, ma è giusto così, non dobbiamo andare oltre. Però sappiamo anche che c'è, e questo è l'educazione alimentare che ci aiuterebbe a capirlo bene, una certa tolleranza. Lo yogurt non è che scade oggi, che i fermenti da 10 milioni a mezzanotte passano a, non lo so, e peraltro anche un decadimento, non è che poi ti... Allora, sapere che c'è una tolleranza di una settimana, per dire, riprendere i sensi, apri questa confezione, annusa, guarda, assaggia, ecco, è come se appunto fossimo talmente insicuri da aver paura, e questa è la nostra società. Sentiamo Silvana da Pordenone, una radioascoltatrice. Buongiorno Silvana. Buongiorno, guardi, io le porto una mia piccola esperienza, una piccola trattoria, come si dice, niente di serio, no? Ma dal 93. Però le dico una cosa, quando c'è la gente che ti viene a prenotare i pranzi, succede sempre che questi ti fanno 7-8 portate, no? Iniziando dall'antipasto al dolce. E io dico, ma guardate, non è l'ultima cena della TV. Quando hai 4 portate è più che sufficiente, però c'è sempre questo incubo di fare brutta figura, di morire di fame, ma mangeranno, ma ci sarà abbastanza. Ecco, questo è veramente uno scoglio che io trovo difficile da togliere. Vi ascolto la risposta, complimenti per tutto, anche a lei e la sua trasmissione. Ma guardi, Silvana, il problema è che non tutti hanno questa abitudine, perché sempre meno, io vedo sempre più, vedo dei ristoranti insomma con pochi posti a sedere, quindi credo che, io penso che si mangi molto meno, non so se, tu cosa ne pensi Lisa, si mangia meno? Ma penso che sicuramente, proprio per il valore anche che diamo al cibo, il potere conviviale, ci piace tanta abbondanza in tavola, così come ci piace quando facciamo la spesa riempire il carrello come se stesse per scoppiare veramente la bomba atomica. E c'è anche quel mix a volte di grassi, zuccheri e sale che ci rendono irresistibili i cibi e che non riusciamo a smettere di mangiarli. Penso che basti prendere consapevolezza del problema, quindi che il nostro istinto ci porta in direzioni che non sono esattamente il meglio né per la nostra salute né per le nostre tasche, e prendere coscienza di questo problema e quindi insomma cercare di combatterlo. Sentiamo Alberto dalla provincia di Napoli. Buongiorno Alberto. Buongiorno, salve. L'intervento è relativo ad una esperienza in Inghilterra, siamo alla fine degli anni 70, inizi degli anni 80, dove per evitare che i supermercati smaltissero materiale scaduto, in prossimità della scadenza degli stessi il prezzo del prodotto veniva drasticamente ridotto, e per quanto riguarda la mia esperienza posso dire che quella politica era abbastanza efficace. Ovviamente i supermercati si vedevano in questo modo tagliati i costi di smaltimento del materiale scaduto. Bene, diamo poi una risposta perché abbiamo solamente un minuto, ma leggo, ci sono tanti SMS. È auspicabile l'introduzione dell'educazione domestica a scuola, basta che poi non porti ad eliminare le tradizioni come accaduto con l'erbazzone. È evidente che questo arriva da Reggio Emilia. Un'altra, mi hanno regalato 10 litri di olio extra vergine, dove lo posso tenere? Al buio, in un luogo fresco e possibilmente quindi il vetro deve essere scuro, questo per in modo che non ci sia un veloce irrancidimento, ecco. Poi buongiorno, ho cominciato a cucinare anche i tronchi e le foglie dei broccoletti con grande gradimento dei miei figli. Elena, sì certo, ci sono tutta una serie di cose che vengono buttate, anch'io ultimamente ho mangiato i gambi del carciofo che non sapevo che erano così buoni, e devo dire che è stata una grande scoperta, e ora non li butterò mai perché mangiati a pinzimonia sono veramente una delizia. Beh, basta diciamo sperimentare, poi si trovano tutta questa serie di cose. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo a parlare appunto di argomenti che sono ridurre lo spreco, promuovere un'agricoltura sostenibile, quindi sono temi che sicuramente in questi mesi echeggeranno fortemente dal pulpito dell'Expo. Ma prima ho sentito che appunto veniva pronunciata la frase finalmente si parlerà di cibo. Beh, se ne parla tanto, secondo me in questo momento è anche a sproposito, nel senso che se ne parla in maniera molto, molto sbagliata. Basta accendere la televisione e vedere alcuni programmi, non tutti, io non è che voglia essere, come posso dire, critico con tutti, però assolutamente credo che di educazione alimentare in televisione se ne faccia poco. Se n'è fatta sicuramente in passato. Vedo che Andrea sobbalza perché tutti ricordiamo, almeno noi più anziani, si fa per dire, Mario Soldati. Io li ho visti dopo, è stato un po' l'iniziatore, diciamo, di questi viaggi nel cibo. Poi c'è stato un decadimento imbarazzante e questi spadellatori, diciamo, che vediamo in TV facessero una percentuale minima di educazione alimentare per davvero, darebbero un contributo importante. Così questi 70 format televisivi che io ho calcolato in un anno nel nostro paese, che hanno il piatto, il cibo, la padella, questo insomma... No, perché si parlava di appunto come conservare. Voglio fare una domanda, tra l'altro, prima abbiamo parlato appunto di scadenze, ma quanto c'è da consumarsi entro sui prodotti, Andrea? Vuol dire che è molto labile, cioè non c'è una data precisa, quindi è lasciato così alla conoscenza del consumatore. C'è un olio dopo l'anno e mezzo di scadenza. Ecco. Faccio un esempio classico, diciamo, ormai questa è la domanda che mi fanno tutti, come se fossi... In realtà, da consumarsi preferibilmente entro, prendi un prodotto secco, la pasta, è una scadenza, una sorta di patto che fai tu con il produttore, che ti dice: guarda, il massimo delle caratteristiche, diciamo, organolettiche, si dice, della pasta è entro, per dire, 18 mesi. Poi uno stesso tipo di pasta, lo spaghetto numero 5 di un'altra marca, in realtà te lo ritrovi, per dire, 6 mesi di meno. È una scadenza essenzialmente commerciale, si dice il turnover degli scaffali. Puoi andare tranquillamente oltre, anche lì devi verificare. Chiaro che se c'è nella confezione l'insetto e tu non sei quella parte del mondo che consuma insetti, perché è lì che arriveremo, non ce ne rendiamo conto, ma avremo bisogno di proteine di quel tipo, allora in quel caso la butti via. Mentre il latte, naturalmente, lo devi consumare entro quella data, è un prodotto fresco. Lisa? Sì, volevo aggiungere che quindi sicuramente sulle date di scadenza c'è un pochino di flessibilità, come dicevamo prima, usare i sensi. C'è anche il problema di quando siamo noi a produrre cibo, ad esempio quando facciamo le conserve o mettiamo nel congelatore gli alimenti e non ci diamo una vera data di scadenza. Lì, insomma, soprattutto se non mettiamo un'etichetta, non ci segniamo quando abbiamo prodotto un alimento, l'abbiamo congelato, è molto facile che lo destiniamo poi a diventare un rifiuto. È un classico che stipiamo il freezer e poi ce ne dimentichiamo, salvo poi magari quando lo andiamo a sbrinare un anno dopo e ci accorgiamo Molte volte ci sono delle sorprese straordinarie. A me è successo con un formaggio che è il più buon formaggio che abbia mai mangiato in vita mia, era scaduto da un anno. Vabbè, queste sono cose però che non devono far testo. Bene, abbiamo parlato di Carta Milano, ma esiste anche un protocollo Milano, messo a punto, promosso da un'azienda importante come Barilla. Un protocollo che parla di fame zero e stili di vita sani, promuovere l'agricoltura sostenibile, ridurre lo spreco alimentare. Bene, buongiorno Paolo Barilla. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Ecco, io mi chiedo, perché credo che sia un interrogativo che si pongono anche molti nostri radioascoltatori, oppure chi conosce appunto questa iniziativa. Perché un'azienda alimentare promuove un'operazione di questo genere? Cioè, non è abbastanza anomalo, specialmente nel panorama italiano. Ma può sembrare apparentemente anomalo, ma in realtà noi abbiamo un'attività di ricerca che è partita alcuni anni fa, perché ci chiedevamo al nostro interno il senso del nostro lavoro e di essere più consapevoli degli effetti che noi potevamo avere su quello che è sicuramente la salute delle persone e sull'ambiente in genere e sull'agricoltura. Per cui abbiamo iniziato un'attività di ricerca per indirizzare la nostra attività verso, diciamo, una situazione sempre migliorativa e positiva, e poi abbiamo scoperto delle correlazioni fra cibo, ambiente, nutrizione e salute straordinarie. Allora, in vista dell'Expo ci è parso naturale dover fare un documento, che tra l'altro il documento è molto leggibile e semplice, di passarlo alle istituzioni perché potesse diventare un qualcosa che l'Italia può proporre al mondo e come indirizzo e come accordo anche globale, perché tutti i problemi che sono stati elencati questa mattina alla fine sono problemi che noi abbiamo non solo in Italia ma nel mondo, e dovremmo avere dei codici di comportamento uniformi per riuscire a migliorare tanti aspetti della nostra vita, che sono sicuramente anche a portata di mano con molte azioni anche molto semplici. Ecco, ma questo vostro lavoro lo farete coincidere dentro alla carta Milano? Beh, il protocollo è una base su cui può nascere questa carta, che è frutto di un'elaborazione successiva dove ci sono altri partecipanti, per cui speriamo che venga utilizzato come base di lavoro. Poi ci saranno dei pezzi che saranno migliorati, alcuni saranno integrati con delle parti nuove, ma diventerà un posizionamento, diciamo, dell'Italia da offrire a tutti come proprio contributo per migliorare tante normative della nostra vita. Ecco, un'azienda importante come la vostra può contribuire a ridurre lo spreco alimentare con il lavoro di ogni giorno? Ma noi ci siamo resi conto che da soli su nutrizione, salute, impatto ambientale, spreco alimentare, da soli non si fa niente. Per quello che dobbiamo parlare attraverso le filiere, dobbiamo parlare attraverso le istituzioni, perché dobbiamo avere degli standard comuni e soprattutto una cultura differente per come approcciare i problemi, perché i problemi si risolvono quando si lavora tutti nella stessa direzione. Il tema degli sprechi, solo un'integrazione fra agricoltura, aziende e distribuzione renderebbe le cose molto più semplici. Dall'altra parte ci vorrebbe sicuramente che le istituzioni attraverso la scuola formassero una generazione di individui più consapevoli di tutte le cose che abbiamo discusso. Allora le due cose si incrociano e il mondo avrebbe un altro aspetto, sarebbe molto più positivo. Bene, grazie a Paolo Barilla per averci illustrato appunto gli obiettivi del protocollo Milano. Ma è arrivata un SMS che secondo me è molto interessante. Dice: ma perché non si produce meno? Bella domanda, guardi me, quindi sì, ti aspetti sì. Una risposta. In realtà credo che siamo noi consumatori. A me piacerebbe cambiare poi questo termine, perché consumare vuol dire distruggere. Questo è l'etimo della parola. Dovremmo forse provare a definirci dei fruitori. Ecco, fruire è già anche più bello come suono. Siamo noi che siamo bulimici, che acquistiamo, l'industria. Come diceva la signora del ristorante di Otto Portati. Sì, insomma, allora non è la questione, cioè l'agricoltura, la parte di trasformazione si adatta. Siamo noi che dobbiamo respingere il carrello e fare gli acquisti, consumare o fruire, come piace dire a me, in modo più responsabile. E allora ci sarebbe maggior legame fra chi produce e chi fruisce, e allora anche la produzione si adatterebbe, e magari se dessimo più valore al cibo saremmo, capisco che adesso dirlo in tempi di crisi sembra rivoluzionario, disposti a pagare un po' di più per mangiare, eliminando magari qualche altro consumo, e qui mi riferisco proprio al consumo, alla distruzione di cose, di merci che magari non ti servono. Cioè nutrirsi soddisfa un bisogno fondamentale, se no non vivi. Mangiare bene fa bene a te come salute, ma fa bene anche all'ambiente. Quindi c'è un nuovo equilibrio da generare. Sorge un interrogativo molto importante: chi dovrebbe diminuire, l'offerta o la domanda? Devono andare, perché c'è il mercato, bellezza, direbbe qualcuno, lo manteniamo, non è che siamo o torniamo o vogliamo essere in un'economia di piano dove uno decide quanto devi produrre e quanto devi consumare. Questo non ha funzionato e lo sappiamo bene, quindi è un nuovo equilibrio da raggiungere, forse in un'economia che non è più lineare, quella della crescita dove devi produrre, poi comprare, consumare, ma non riesci neanche a farlo, un po' per il tempo, per la velocità, un po' perché siamo in crisi e appunto sprechiamo o rifiutiamo. No, riprendiamo l'economia della natura, l'economia circolare, quella che non produce rifiuti, che non ha disoccupati, quella che abbiamo copiato fino a poco tempo fa. Sembra qualcosa di eretico, ma se guardate i documenti dell'Unione Europea si va esattamente in quella direzione, l'economia circolare. 800 24 00 24, 349 238 6666, e leggo un SMS che è indirizzato a Lisa Casali. Buongiorno, mi stupisce Lisa Casali, di cui ho letto vari libri, perché l'acqua di cottura dei legumi, così come quella di ammollo, andrebbe eliminata perché è indigesta. No, non sono d'accordo, nel senso che può essere indigesto un grande quantitativo, ma in realtà è la base di una zuppa pronta, e quando cuociamo una pasta e fagioli non è molto diverso da un'acqua di cottura. L'acqua di ammollo è un'altra cosa, che magari può anche contenere delle impurità e che magari usiamo per innaffiare, ma l'acqua di cottura dei legumi, veramente aggiungendo una cipolla e poco altro, è la cena ed è fantastica. E anche sul discorso che dicevamo prima invece sulla produzione, io credo che il consumatore abbia un ruolo veramente importante che possa condizionare di fatto l'industria, visto che è più difficile il contrario, dobbiamo essere noi veramente a fare un po' uno sforzo. Se noi vogliamo vedere solo supermercati super pieni e carrelli super pieni, sicuramente non possiamo aspettarci che ci sia una diminuzione della produzione. Questo dilemma, torniamo indietro, torniamo alle battaglie di Galbraith, ma insomma lasciamo perdere. C'è un sms spiritoso, perché non devo dire che non è offensivo. Banderas è uno spreco eliminabile, mi scrivono, quindi devo dire che insomma è divertente questa battuta. Chi parla anche del discorso di molta gente che non sa pulire esattamente il pesce, perché si potrebbero usare le lische, si potrebbe usare la testa, si potrebbe usare un po' tutto. Del tonno non si butta via niente, anzi veramente alcune parti del tonno sono più straordinarie rispetto al filetto di tonno, quindi ce ne sono veramente tantissime. Si dice anche del maiale, non si butta via niente, quindi insomma ci sono delle cose, ma anche queste bisogna conoscerle, perché sicuramente se non c'è una conoscenza, come si fa a capire uno che va a comprare dei prodotti a usarli fino in fondo? E devo dire che sulle verdure, il discorso che faceva prima dei boschi, parlava mi sembra questa radioascoltatrice, c'è una scienza emergente, quella del foraging, cioè di raccogliere i prodotti selvatici, che sicuramente ha anche un tipo di cucina ora in grande voga, specialmente nel nord Europa, quindi raccogliere il selvatico, che secondo me è un superamento del vegetariano e del vegano addirittura, quindi sicuramente ci sono strade che stanno emergendo, molte volte arrivano anche dalla cucina e poi via mano aggiungono i prodotti. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Sentiamo Giovanna da Genova, una radioascoltatrice. Buongiorno Giovanna. Buongiorno a lei e buongiorno alle persone che sono con lei e a chi ascolta. Io volevo intervenire soltanto per dire la mia età, ormai sono quasi 90 e gli anni sono tanti, quindi io ricordo gli anni in cui si andava a comprare il caffè a grani, numero di grani. Si comprava un etto e mezzo. Oggi, entrando in un supermercato, 2x1, 3x2, che cosa succede? La gente è attratta da questa offerta e giustamente se la casa c'è molte persone questo può servire, ma dove sono poche persone finisce che la roba va a finire nel frigorifero, poi o diventa vecchia e diventa cattiva oppure la si dimentica. Ecco, io ho un negozio piccolino dove il cliente è cliente, è la persona, quindi tu gli dici cosa mi dice, questo è più fresco, quell'altro è più fresco, cioè bisogna imparare a comprare prima di tutto. Certo, ma è anche... non soltanto vedere quello che c'è, quello che ti propongono, perché è giusto che ci sono i supermercati e devono vendere, ma chi compra? Siamo noi, e siamo noi che sappiamo quante cose ci servono. Quindi bisogna anche ritornare un po', proprio per le necessità che ci sono oggi. I soldi sono quelli. Grazie, grazie, signora. Bisogna aiutarci. Ti avanzo un pochettino di carne bollita e beh, ti fai un bel polpettone. Aggiungi un uovo, due patate e ti fai un bel polpettone. Grazie, signora, del suo intervento. Ma lo spreco ci arriva anche da tantissimi sms che stanno arrivando. Peso 40 kg, al ristorante mi servono la stessa porzione di chi ne pesa 85, risultato avanzo o mangio il piatto e basta e sto a guardare, perché non offrire porzioni ridotte? Ritorno al discorso di prima della signora, ma c'è qualcuno che probabilmente lo spreco lo batte, caro Andrea, nei ristoranti self-service cinesi un eccessivo avanzo sul piatto viene penalizzato con extra costo. Ale. Bellissima. Questa, grazie, grazie a chi ha mandato, a chi ha mandato sì. questa, questo SMS, perché è troppo importante. Ma poi il problema è questo del, appunto, bisogna ridurre prima di arrivare alla pattumiera. Certo, ma non per rispondere a Giovanna, visto i suoi 90 anni, lei queste cose le sa molto meglio di noi, però sto preparando la presentazione, la prefazione di un librettino pubblicato durante gli anni dell'autarchia fascista, Non sprecate, che è un manuale straordinario. Tutto può essere utilizzato, lo spreco è il tarlo della ricchezza, ed è un manuale, un bignamino diremmo oggi, di economia domestica straordinaria. Ecco, noi dobbiamo semplicemente riprenderlo, perché io insisto tanto sull'educazione alimentare a scuola, perché se partiamo dalle scuole, questo è l'investimento che dobbiamo fare, prendiamo tutti gli alunni, gli studenti, prendiamo le loro famiglie, i genitori, prendiamo gli insegnanti, che sono molto più pronti di quello che noi non possiamo pensare, in una società peraltro multietnica, quindi è un quarto, forse di più, della nostra società, è da lì che dobbiamo ripartire. E allora a quel punto il valore del cibo verrà in qualche modo riscoperto. È come riscoprire l'acqua calda, però ogni tanto bisogna riscoprirla. Ma se ti interessa, 4 anni fa in Grecia è stato ripubblicato un libro di ricette della guerra, dei tempi di guerra, e anche quello aveva tutta una serie di segnalazioni importanti. Io ne ho letto dei pezzi che erano stati tradotti in italiano, ma sicuramente c'è anche un altro libro, Le ricette in tempo di guerra in Italia, che è stato ripubblicato recentemente, due anni fa, di un'autrice italiana. Quindi c'è una letteratura. Ma vedo come si possono utilizzare le lische di pesce. Allora, le lische di pesce, se sono pesci piccoli come le sarde, i sauri, le alici, si possono semplicemente far tostare e diventano croccanti come se fosse uno snack, quasi un grissino. Quelle invece dei pesci più grossi si usano per fare i fondi. Il fondo poi è un ingrediente fantastico come base per servire un pesce, per fare una zuppa, oppure insieme alla testa anche per fare i classici ristretti. E a proposito del tutto può essere consumato, tutto può essere mangiato, insomma, io sono tanti anni, come sapete, che ho la mia battaglia dove dicevano che ero pazza e cercavo di usare qualunque parte degli alimenti, ed effettivamente quella che è stata un po' la scoperta, sperimentando sulla mia pelle, è che tra i prodotti italiani è tutto commestibile, e che una cosa anche molto interessante è che noi scartiamo in media degli ortaggi e della frutta arriviamo fino al 50%, cioè ci sono ad esempio i legumi freschi come le fave, i piselli, di cui buttiamo via il 70%, o i carciofi anche 60-70, però in media siamo intorno al 50. Se impariamo a usare tutto, anche le parti meno nobili, e non dobbiamo essere per forza chef o avere chissà quali strumenti, abbiamo anche un importante risparmio sulla spesa, quindi quasi la metà. È come portare a casa il doppio del valore del cibo. E un piccolo esempio è anche la spremuta. Tutte le volte che noi ci facciamo una spremuta, stiamo buttando via il 70% dell'arancia. Se abbiamo comprato delle arance, di quelle con la buccia edibile, che purtroppo uno dei paradossi che ci sono adesso è anche la buccia non edibile, e possiamo imparare a usare anche la polpa e la buccia. Quindi, poi certo. Mi piace, posso dare anche consigli su come fare. Ma vorrei chiederti una cosa sull'educazione, perché sull'educazione alimentare si parla sempre giustamente di inserimento nella scuola, ma io so benissimo, come forse tutti coloro che sono già stati a scuola sanno, che ci sono certe materie che non vengono mai prese in considerazione, in grande considerazione. Ecco, io credo che se si va a aggiungere un discorso di educazione alimentare, e si può creare come anche una reazione. Io credo che l'educazione alimentare prosegue nel tempo, cioè non solo a scuola si possono dare delle basi divertenti, però, cioè vediamo che ci sono delle trasmissioni in cui i bambini cucinano e sono dei maghi questi bambini, cioè in realtà hanno una passione incredibile, quindi forse questo è il momento, però bisogna anche continuare. Io non credo che, cioè da bambino uno impari, se poi non farà mai da mangiare, mi viene in mente. Quindi credo che debba essere non solo da bambino, ma poi nella crescita, debba essere fatta ogni giorno, in ogni dove, un discorso di educazione alimentare. Certo, fra l'altro io non sono un pedagogista, diresti tu, nessuno è perfetto, non sono in grado di dire se deve essere inserita come corso monodisciplinare oppure come pezzo, diciamo, di altre materie, dall'educazione civica, in realtà alla storia, alla geografia, alla letteratura, ma il cibo è ovunque, in realtà queste 4 lettere sono quelle più aggettivate o declinate, e deve essere però un'educazione permanente, deve essere la società che parla del cibo in modo modo diverso, perché sennò tutte queste dicotomie, queste contrapposizioni, no? L'anoressia e la bulimia, e quando parlavamo prima del consumo, della fruizione, ecco, qui si tratta di consumare o di mangiare in modo sufficiente, quello che ti serve realmente. Noi siamo sempre oltre, vogliamo sempre di più, non abbiamo più limiti e non sappiamo, questo ci potrebbe insegnare l'educazione alimentare, che dentro un chilo di carne c'è tanti ettari di suolo, poi risorsa scarsa, anzi diremmo limitata, la terra, di acqua tantissima, di energia, la sapienza del lavoro umano e così via. Sulla terra c'è un bellissimo articolo oggi di Enzo Bianchi, sulla Repubblica, sulla stampa di Torino. Poi magari ne leggo un pezzetto in chiusura. Sentiamo Gino dalla provincia di Milano. Ah, buongiorno Paolini, saluto anche il professor Segre, che diciamo, ho avuto occasione di conoscere personalmente. Niente, io volevo segnalare un progetto molto interessante che sto presentando circa 4 mesi fa a Monza, proprio nel comune di Monza, in collaborazione col Consorzio del Ballaggio Alluminio e la struttura che rappresenta i ristoratori locali. Hanno presentato un progetto che si chiama Tenga il Resto, dove vengono distribuite delle vaschette ovviamente in alluminio al cittadino che non consuma completamente il pasto, e questo permette ovviamente di salvaguardare il cibo che, come ha detto il professor Segre, si porta dietro fino alla cottura degli impatti ambientali. Gino, devo interromperla perché devo chiudere, ma voglio leggere il finale dell'articolo di Enzo Bianchi. Per tutti occorrerebbe che l'Expo diventasse l'occasione per far risuonare il comandamento: ama la terra come te stesso. Buongiorno e grazie a tutti.